falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. In tutti gli sport ci sono campioni che diventano un riferimento per la generazione successiva. Per esempio nello sci, Alberto Tomba ha avuto come riferimento Gustavo Töni, che a sua volta si era ispirato a Zeno Colò. Ma nella maratona, che è la più difficile prova d'atletica, la più massacrante, c'è un uomo, un italiano, che ancora oggi, a più di un secolo di distanza, è un esempio per tutto il mondo, per tutti quelli che si cimentano nei 42 chilometri e 195 metri della gara. Il nome di quest'uomo è Dorando Pietrin. Dunque, chiariamo subito una cosa: il nome corretto è Pietri, anche se alcuni biografi lo chiamano Petri. Siamo a Carpi, o meglio, lungo una strada che unisce Correggio a Carpi, strada costellata da grandi olmi che ricoprono la campagna emiliana. Però, se ci allontaniamo un attimo dalla strada, ci si può sedere ai piedi di uno dei tanti pioppi che spezzano l'orizzonte dei campi. E gli anziani chiamano questi pioppi le pioppe parladore, perché ognuno si può sedere ai loro piedi e confidare i propri problemi cercando un consiglio. Chi ha un orecchio fino è addirittura capace di sentire la risposta alle proprie domande. Seduto sotto uno di questi pioppi c'è un uomo non tanto alto, con il viso segnato dalla fatica e gli occhi lucidi. Si tocca con le dita i baffi, quelli che nel 1911 portano quasi tutti gli uomini. Si asciuga il sudore della fronte dopo essersi tolto il cappello. Cerca consiglio e lo chiede alla pioppa parladora per sapere se la sua carriera di maratoneta deve finire lì, tra le campagne di Carpi, oppure deve continuare. Continuare una carriera iniziata qualche anno prima, nel 1904, per caso, quando questo ragazzo 19enne lavora come garzone in una pasticceria nel centro di Carpi. Lui è di una famiglia umile, una famiglia di contadini che pochi anni prima ha lasciato la campagna per trasferirsi in città. La natura non gli ha regalato un aspetto prestante, sfiora il 1,60 di altezza, però in compenso ha gambe molto forti e muscolose ed è l'ideale per muoversi su e giù per la città a consegnare pasticcini e torte. Dorando, fin da giovane, si mise a lavorare in una pasticceria, si chiamava Melli, l'attuale bar Roma della Piazza Martiri di Carpi, per cui non era un grosso peso per la famiglia, magari guadagnava poco, ma già a 10 anni era uno che portava a casa qualcosina. Questo era Ivano Barbolini, il presidente e fondatore della Maratona d'Italia, che è una corsa che ogni anno da 25 anni unisce nella provincia di Modena Carpi a Maranello, in ricordo dei due più rappresentativi cittadini delle città emiliane appena citate: Dorando Pietri per Carpi e ovviamente Enzo Ferrari per Maranello. Avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette di pane e miele, a chi li do? Non li darò alla guerra, all'uomo nero non li darò. Nel 1904 la cittadina di Carpi è in subbuglio perché tutti attendono che il sindaco in persona dia la partenza della gara di 3000 metri. Tra i partecipanti c'è il leggendario Pericle Pagliani, l'indiscusso campione laziale della specialità, che nella vita si guadagna da vivere facendo lo strillone. Dorando Pietri deve fare le consegne della pasticceria, però l'occasione è troppo importante. Lui corre sempre in ogni occasione possibile e oggi c'è Pericle Pagliani, che è un vero campione. Non non vuole perdere la possibilità di parlargli, perché vuole chiedergli anche se con la corsa si guadagnano abbastanza soldi per mantenere una famiglia. A Carpi lo sanno tutti che gli piace correre, lo sanno i suoi genitori, lo sa perfino il signor Melli, che è il padrone della pasticceria. Lo sa da quella volta che gli ha chiesto di imbucare una lettera urgente per Reggio Emilia, e lui, accortosi che il postino aveva già ritirato la posta, non ci ha pensato due volte, ha letto l'indirizzo sulla lettera e via di corsa fino a Reggio a consegnare la lettera di persona. 25 chilometri all'andata e altrettanti al ritorno, il tutto in meno di 4 ore. Quando vide questo atleta, questo podista, vincere una corsa a Carpi, non solo si entusiasmò, ma lo rincorse per avere delle informazioni, lo rincorse durante la corsa, proprio mentre l'altro correva con il cesto, lui faceva dorando il garzone di una pasticceria con dentro le torte, le paste che si conciarono, come facile immaginare, lo rincorse e arrivò insieme a lui, cioè fece tutta la corsa insieme a lui, cioè significa che già era in grado di battere o comunque stare alla pari con un grande campione. Questo ce lo racconta Giuseppe Pederiali, che nel libro Il sogno del maratoneta ha narrato la vita di Dorando Pietri. Quindi c'è una folla sbigottita con Dorando Pietri, che ha appena tagliato il traguardo della 3000 metri di Carpi insieme al campione nazionale, a Pericle Pagliani. E intanto lui ha ancora il grembiule da garzone e la scatola con le torte in mano. E quindi qualcuno lo avvicina tra gli applausi e le ovazioni per il Pericle Pagliani. La persona che lo avvicina è Francesco Minozzi, che è il presidente della società sportiva La Patria. Rimane sbalordito, decide di offrire una possibilità al ragazzo, adorando. Gli offre di entrare nella squadra e di allenarsi seriamente. Dorando Pietri è felice, anche se guardando il campione Pericle Pagliani assiste a una scena che non si sarebbe mai aspettato, come ci racconta Giuseppe Pederiali. Però poi ci rimase male, perché finita la corsa le autorità così si congratularono, regalarono la coppa in palio a Pericle Pagliani, e poi Pericle, con il berrettino suo, passò tra la gente a chiedere l'obolo. Usava così, cioè una cosa umiliante, però allora era l'abitudine. Dorando Pietri ha raggiunto il suo obiettivo, quello di poter vivere la propria passione per la corsa come una possibile futura occupazione. Lo aspettano molte gare. Deve dimostrare di essere in grado di guadagnarsi un posto per la meta più ambita da ogni sportivo, perché lui vuole partecipare alle Olimpiadi. Falco e il Gabbiano. Riviviamo la grande avventura di Dorando Pietri, il garzone di Carpi dalle gambe potenti, che sta per realizzare il suo sogno, ottenere la chiamata per partecipare alle Olimpiadi di Londra del 1908. Le Olimpiadi, lo sapete, sono l'evento sportivo più importante del mondo, hanno cadenza quadriennale e gli atleti di tutto il mondo si sfidano e si incontrano, e soprattutto in quegli anni la cosa aveva un risalto fenomenale. Thompson, Powell, Gay, Blake, Gatlin, Bolt, Bailey e Martina, per un silenzio che adesso è quasi tombale prima della partenza, del colpo di pistola e della chiamata regolare. Bolt è partito un po' male, ma prova a distendersi. Adesso c'è Powell che è partito bene, Blake al comando, Bolt, esce lui, è Bolt che va a vincere secondo Blake, è Bolt, 9.64, Bolt, il mondo è ancora suo. Usain Bolt che vince le Olimpiadi. La regina delle discipline sportive è sicuramente l'atletica, e forse gli appuntamenti più attesi dal pubblico sono le due grandi gare di velocità, soprattutto i 100 metri, e poi la gara di chiusura, perché le Olimpiadi si chiudono sempre con una gara che più di tutte incarna lo spirito olimpico della sfida dell'uomo per superare se stesso, la maratona. È un mix delicato la maratona, tra forza, resistenza fisica, equilibrio mentale, strategia. Costringe l'atleta a dosare le proprie energie dal primo all'ultimo chilometro. Siamo a Londra, è il 1908, la quarta edizione delle Olimpiadi moderne, che fa seguito alle due precedenti edizioni che non hanno avuto un grande responso di pubblico, quella di Parigi e quella di St. Louis. Oltretutto c'erano una serie di discipline sportive strane, insomma lo spirito olimpico si stava ancora formando. Per Londra è un'occasione unica per dimostrare al mondo intero l'importanza di questo evento sportivo, e per gli sport nascenti è l'occasione per venire, come dire, legittimati negli anni a venire. Chi partecipava alle Olimpiadi non lo faceva per soldi, ma semplicemente per amore dello sport e per patriottismo nei confronti del paese che rappresentava. Se vincevi dovevi rimanere modesto, se perdevi dovevi far vedere di aver perso con onore. È l'inglese Brendan Foster che parla, medaglia di bronzo nei 10.000 metri alle Olimpiadi di Montreal del 76, e ci racconta lo spirito che regna nelle prime edizioni dei giochi olimpici. Gli atleti non sono professionisti, non ci sono premi in denaro e sponsorizzazioni, anzi chi viene colto a guadagnare del denaro può essere squalificato, succederà negli anni seguenti. Chi partecipa alle Olimpiadi è veramente convinto che il motto sia, come disse più volte De Coubertin, partecipare e non vincere. Dorando è accompagnato da suo fratello Ulpiano, che abita a Londra da qualche anno, se la cava con l'inglese, gli fa un po' da manager, da preparatore atletico. Il 24 luglio, in una giornata particolarmente calda e assolata, partono i 56 corridori iscritti. Dorando ha studiato a lungo i suoi avversari, li conosce uno per uno, ma soprattutto conosce molto bene l'americano John Hayes. È il suo avversario più forte e l'uomo da tenere d'occhio. Another breath, London calling, and I don't wanna shout. Il via viene dato dal castello di Windsor dalla principessa del Galles. Dorando alla pettorina numero 19, appuntata alla canottiera con quattro spille da balia, e inizia la sua corsa. E dunque sono ancora lontani i tempi degli integratori salini, delle maltodestrine, e Dorando ha in mano una spugna imbevuta nell'aceto balsamico che si è portato da casa. La usa per scuotersi nei momenti in cui la stanchezza sembra avere il sopravvento. Forse gli ricorda la sua carpi, il profumo del fieno, le corse dei campi da bambino. E certo, insomma, è una, come dire, una strategia bizzarra partire con l'aceto balsamico. Davanti a lui ci sono 40 chilometri da correre, o forse qualcuno di più. Il tragitto della maratona nelle prime edizioni delle Olimpiadi era di 40 chilometri. Alle Olimpiadi di Londra si partì dal castello di Windsor e si pensò di far arrivare i corridori al White City Stadium davanti al palco reale. La distanza totale era di 42 chilometri e 195 metri, e quindi il percorso risultò più lungo di quanto avevano sempre corso gli atleti fino a quel momento, e divenne la misura ufficiale per tutte le edizioni successive. Dorando Pietri risale il gruppo, supera uno dopo l'altro tutti i suoi avversari, procede con sicurezza verso la vittoria. Si affianca ad Ace, i due si guardano, si sorridono, Ace fa un cenno di capo a Dorando in segno di saluto, quindi anche lì di questi tempi ci sono ancora regole di cavalleria tra gentiluomini. È normale che un atleta conscio della propria inferiorità ceda il passo a questo modo. Dorando contraccambia il saluto e prosegue, distanzia l'americano. Intanto il fratello Ulpiano, che lo accompagnava in bicicletta, lo precede, va verso lo stadio per godersi l'arrivo trionfante del fratello. Sì, perché il momento più bello della maratona olimpica non è tanto il taglio del traguardo, quanto l'entrata nello stadio con la folla festante che ti accoglie con un boato. Lo sa bene anche Gelindo Bordin, che la maratona l'ha vinta nel 1988 a Seul. Per quanto riguarda un maratoneta, almeno per quanto mi riguarda, il momento più esaltante è stato quando sono entrato allo stadio, più che quando ho attraversato la linea del traguardo. È l'uomo che vince, è l'uomo che vive in questo momento la più grande soddisfazione che un atleta possa vivere. Gelindo Bordin. Dorando Pietri entra nello stadio accompagnato dall'incitamento della folla, però si vede subito che qualcosa non va, svolta a sinistra invece che a destra, i giudici gli fanno cambiare direzione, barcolla, cade, si rialza, è stremato. Si racconta anche che lui abbia chiesto a un certo punto quanto mancava e un londinese gli abbia fatto segno 2 con la mano, ma non erano 2 chilometri come pensava lui, bensì 2 miglia, quasi il doppio, e quindi lui è veramente inabitato. apnea, ha un fazzoletto bianco sulla testa che lo rende un po' ridicolo, ma che il fratello lo ha costretto a indossare perché quel giorno a Londra, tra l'altro, c'è un sole veramente cocente. Sviene, viene soccorso e viene rianimato da un medico. A pochi metri dall'arrivo, Dorando Pietri cadde di nuovo e la folla a quel punto scoppiò in un grido disperato, perché videro arrivare John Yates, l'americano, e gli inglesi non volevano assolutamente che davanti al re d'Inghilterra vincesse uno Yankee. E lui si rialza, cammina, passano i minuti, alle sue spalle comincia a intravedersi la sagoma dell'americano. A pochi metri dall'arrivo Dorando cade in ginocchio, non ce la fa più. Poi un braccio lo sorregge, è un uomo con una paglietta e un megafono, è un giudice. Lo aiuta a tagliare il traguardo. Dorando Pietri perde i sensi tra le urla della folla che festeggia la sua vittoria, mentre dietro di lui è arrivato anche Johnny Hayes. Help, I need somebody. Just anybody. Help. You know I need someone. Help. Now these days are gone. Days I'm gone. Not so self-assured. Now I've changed my mind. I'll open up the doors. Stiamo raccontando la storia di Dorando Pietri e di quel pomeriggio di Londra del 1908 in cui il maratoneta carpigiano ha vinto la maratona delle Olimpiadi di Londra. In realtà non l'ha vinta, ha preceduto il suo diretto avversario, l'americano Johnny Hayes, ha comunque tagliato il traguardo per primo, però il destino beffardo sta cambiando le carte in tavola, perché il giovane carpigiano andrà incontro a una brutta sorpresa, come ci racconta Ivano Barbolini. Fu aiutato e quell'aiuto gli americani fecero ricorso e i giudici diedero ragione giustamente ad Hayes, e io aggiungo per fortuna. Lo squalificarono, Hayes vinse la medaglia d'oro, ma Dorando Pietri commosse, diciamo, tutto il mondo. Alessandra di Danimarca, che è la moglie del re Edoardo VII, rimane così colpita da quel piccolo atleta italiano che ha voluto a tutti i costi raggiungere il traguardo a rischio della sua vita, che nella notte successiva alla gara fa preparare una coppa argentata e la consegna lei stessa il giorno dopo a Dorando Pietri, acclamato dalla folla più del vincitore della medaglia d'oro Johnny Hayes, che sportivamente si congratula con Dorando per la grande prova. E il mattino seguente consegnò questa coppa e una pergamena a Dorando Pietri, ed è ed è stata la prima e l'unica volta che in una Olimpiade uno che prima ha vinto, poi ha perso la vittoria, ha ricevuto una coppa, perché nelle Olimpiadi si consegnano solo medaglie. Nei mesi successivi Dorando Pietri è al centro dell'attenzione da parte di tutti i giornali. Tutti lo considerano il vero vincitore della maratona e chiedono una rivincita con Hayes. Armando Cugnet, che è il direttore della Gazzetta dello Sport, lo va a trovare nella sua casa di Carpi e gli propone di organizzare con gli americani una storica rivincita proprio contro Johnny Hayes e nel luogo più prestigioso di New York, che è il Madison Square Garden. Gli americani sono d'accordo e soprattutto è d'accordo cavallerescamente proprio Hayes, che non ha mai ricevuto grandi festeggiamenti per la sua vittoria e forse vorrebbe legittimarla con una vittoria ottenuta sul campo. E tutti, anche negli Stati Uniti, conoscono l'impresa di Dorando Pietri e quindi di Hayes si parla molto meno di quanto lui vorrebbe. Non se ne parla come del vincitore della maratona olimpica, ma come di quello che è arrivato secondo dietro all'italiano. Dorando e suo fratello Ulpiano impiegano più di 10 giorni per attraversare l'Atlantico per raggiungere New York. Per mantenersi in allenamento, Dorando corre ogni mattina sul ponte della nave per 42 chilometri, con i passeggeri che lo sostengono e lo incitano. Oggi si sa che per prepararsi alla maratona non è che devi fare una maratona ogni giorno, ma allora, come abbiamo visto, i metodi di allenamento sono piuttosto empirici. La sfida è molto importante, ognuno vuole dimostrare all'altro di essere il più forte e la grande mela è pronta per ricevere i due sfidanti in quello che diventa l'evento sportivo dell'anno. Start spreading the news. Siamo a New York il giorno prima della grande sfida, quella di Hayes contro Dorando Pietri. Sono stati invitati Pietri e il fedele fratello Ulpiano da Frank Greco, che è uno degli organizzatori della gara del Madison Square Garden. Dorando è istintivamente diffidente, ha ragione lui, e presto si capisce il perché. Perché Frank Greco gli fa capire che la corsa si può aggiustare in modo che sia Ace a vincere. In questo modo l'interesse da parte della comunità italiana porterebbe altri soldi, altra notorietà a tutti, un'altra rivincita. Dorando non ci sta, non è così che vede lo sport, non è pronto per corse truccate con lo scopo di guadagnare soldi. Decide di incontrare Johnny Ace per raccontargli tutto. Lui non lo conosce, l'ha visto solo a Londra, ma sa che tra gli atleti del suo tempo vige un codice non scritto basato su regole di cavalleria, su onestà e lealtà. Si gareggia secondo le regole di De Coubertin, non secondo quelle di Frank Greco. Dorando è sicuro che anche Ace la pensi come lui, e infatti quando i due si incontrano concordano che la gara dovrà essere regolare, deve vincere il migliore senza pensare a successive rivincite. Long distance, gone around. Long time, waiting to feel the sound. I still remember the dream there. I still remember the time you said goodbye. Alle 9 di sera del 25 novembre 1908 il Madison Square Garden di New York è pieno in ogni ordine di posti. All'interno la pista di legno è stata ricoperta da un sottile strato di sabbia umida che rende perfetto il percorso circolare che i due corridori devono ripetere per 262 volte per arrivare ai fatidici 42 km e 195 metri. Prima della corsa, come si usa quel tempo, i due corridori rinvigoriscono le forze con un bel bicchiere di brandy. Ace e Dorando si guardano, si sorridono, brindano, si salutano, preparandosi per la grande sfida. Dorando prende subito il vantaggio, ma durante la corsa Ace recupera. I due si alternano al primo posto fino a tre quarti della gara, quando Dorando inizia a aumentare il ritmo delle sue corte ma muscolose gambe. Giro dopo giro aumenta il suo vantaggio nei confronti dell'americano, che per un soffio evita l'onta del doppiaggio. Dorando vince e la folla è in delirio. Ha vinto lui, ha vinto l'Italia intera. La sfida viene vinta da Dorando Pietri, però i due a fine gara si abbracciano e festeggiano assieme. È il giusto riconoscimento per l'atleta carpigiano della medaglia persa alle Olimpiadi. Per Ace è comunque la consapevolezza di aver vissuto un momento storico per lo sport. Con le sfide tra Dorando e Ace si può dire che inizi il moderno professionismo sportivo. Infatti dopo quella sera le sfide si ripetono e anche per loro, dopo anni di sacrifici, incominciano ad arrivare i meritati guadagni. Bisogna ricordare quanta gente Dorando fece felice, cioè il Dorando che nel 1909, 10, 11 vinse tanto nelle Americhe, quando era il periodo dell'immigrazione, per cui figuriamoci gli italiani quando New York batté il vincitore Hines, ma lo batté più di una volta, figuriamoci il Madison Square Garden pieno quasi tutti gli italiani, che gioia! Dopo quella gara del Madison Square Garden, Dorando Pietri e Johnny Hayes si incontreranno altre due volte e Dorando vinse anche quelle due. Poi però, tornato nella sua Carpi, scopre che quel piccolo dolore che sente nel petto sin da bambino, quando corre, è in realtà una malformazione cardiaca. Il dottore è stato chiaro: Dorando deve smettere di correre, se no muore. Il suo cuore non funziona bene, è un miracolo che qualcosa di grave non sia già successo. Allora si va a sedere sotto la pioppa parladora, l'albero che si dice porti consiglio, e decide per il suo futuro. Molla tutto, tanto ha dimostrato di essere il più forte di tutti. È un nuovo colpo d'ala, questa volta dettato dalla ragione, perché è tempo di pensare alla famiglia. Dorando abbandona l'attività agonistica nel 1911 e si ritira a Sanremo, dove con i soldi guadagnati con le sue vittorie comprerà un albergo e un'officina. Morirà comunque di attacco cardiaco, ma un po' più tardi, a 56 anni. Contro le auto in panne al semaforo e le facce scure nei vetri di uno scortato. Mentalmente faccio un bel calcolo, si modifica lungo il percorso nel risultato, come un discorso improvvisato. La maratona è una corsa massacrante che attrae anno dopo anno sempre più atleti, anche persone comuni che si allenano con costanza per mesi per essere preparati all'appuntamento della gara. È una gara in cui non basta avere il fiato per coprire la distanza, bisogna anche bilanciare il livello di idratazione del corpo e la resistenza dei muscoli. E infatti anche in tempi recenti ci è capitato di vedere atleti stremati arrancare fino al traguardo, come fece Dorando Pietri. Nell'edizione delle Olimpiadi del 1984 di Los Angeles, per esempio, il mondo assiste a una scena simile a quella che accadde a Londra 80 anni prima. Una maratoneta, Gabriela Andersen, svizzera, entra nello stadio, non per prima, e per completare la sua maratona, però barcolla e sembra non farcela. Ricordo le grida della folla, l'incitamento a concludere. Ero disidratata. Le gambe erano due pezzi di legno e non sapevo se il mio fisico avrebbe retto a fare quell'ultimo giro di campo nello stadio. Se fosse stata una maratona qualunque mi sarei ritirata, ma la maratona alle Olimpiadi era il sogno di una vita. E vista la mia età, questa era l'ultima possibilità per partecipare. Non avrei avuto un'altra occasione. La folla accompagna gli ultimi istanti di gara di quest'atleta che con passo incerto, lo sguardo assente, cammina a zigzag e una parte del corpo sembra paralizzata. È sostenuta dagli applausi del pubblico, i giudici le chiedono delle sue condizioni, ma naturalmente nessuno la tocca, se no questo significherebbe la squalifica. E finalmente, ripresa dalle telecamere di tutto il mondo che fa il tifo per lei, la ragazza svizzera taglia il traguardo, arriva 37esima su 44 atleti arrivati, però si guadagna un posto nella storia per aver vissuto uno dei momenti più drammatici e esaltanti delle Olimpiadi. I medici la curano immediatamente dopo il traguardo, lo stadio esplode in un applauso di grande intensità. Nessuno si ricorda chi ha vinto quella maratona, ma tutti si ricordano l'impresa della Andersen, un'impresa che sarebbe piaciuta al barone de Coubertin. Le parole più belle che restano scritte tra le pagine dei giornali del 1908 per commemorare l'impresa di Dorando Pietri sono quelle di Sir Arthur Conan Doyle, che è il padre di Sherlock Holmes. È presente sulla tribuna del White City Stadium di Londra e, dopo aver vissuto da vicino il dramma di Dorando Pietri, ne esalta la figura sulle pagine del Daily Mail. E leggendo queste parole e facendo qualche piccola correzione, tutto questo sarebbe potuto andare bene anche nel 1984 per Gabriela Andersen. Quando il ricordo di questa grande corsa del 1908 si sarà esaurito, rimarrà negli occhi di tutti la visione di quella faccia tormentata, di quegli occhi evanescenti e di quelle gambe rosse barcollanti che portarono Dorando alla vittoria. Mentre scrivo, corre voce che egli sia stato squalificato. Se questo è vero, sarebbe proprio una tragedia. Ma ci sono premi che vanno al di là del ramo di querce e della medaglia. La grande prestazione dell'italiano non sarà mai cancellata dai libri dello sport, indipendentemente dalle decisioni che prenderà la giuria. E E così è stato. Storie di vite straordinarie è quello che abbiamo scelto di fare ogni giorno, raccontarvi una vita straordinaria. E noi aspettiamo anche le vostre indicazioni per avere idee su altre storie da raccontarvi. Scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it. Se mi cercate, comunque mi trovate. Un saluto, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.